giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Milano, 28 maggio 1980, 25 anni fa. Walter Tobagi è l'inviato di punta del Corriere della Sera sul fronte del terrorismo. Scrive articoli documentati e approfonditi in punta di penna sull'evoluzione dei gruppi della lotta armata di sinistra. I terroristi lo stanno attendendo dalle 8 del mattino e proprio a quell'ora Manfredi De Stefano si trova sotto casa del giornalista in via Solari a Milano. Assicura le coperture adeguate al gruppo che si ricompone in porta Genova e si avvia verso via Solari. Paolo Morandini, figlio del critico cinematografico del giorno Morando Morandini, è in bicicletta alla fermata del tram. Francesco Giordano, con funzioni da palo, è all'angolo di via Salaino. Daniele Laus è alla guida di una vettura davanti ad una trattoria e Marco Barbone, figlio di Donato Barbone, direttore editoriale della Sansoni, una società affiliata alla Rizzoli, si piazza insieme a Mario Marano nei pressi di un'edicola. Intorno alle 11 Tobagi esce dalla sua abitazione, volta a destra, pochi metri in bocca a via Salaino. Anni dopo, Mario Marano descriverà così la scena dell'omicidio. Barbone esplode il primo colpo e un giornalista Walter Tobagi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice: spara, spara. Ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento. Va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. E è quel momento che Barbone dice: non è morto, si china, anche lui sulle gambe, ed esplode un altro colpo. L'assassinio di Walter Tobagi viene rivendicato dalla Brigata 28 marzo con 6 cartelle dati lo scritto. Walter Tobagi entra nel mirino dei terroristi il 30 gennaio del 79, il giorno dopo l'omicidio del giudice Emilio Alessandrini. Gli investigatori recuperano una valigetta abbandonata da militanti dei reparti comunisti d'attacco. Contiene schede dettagliate su 36 persone. Una di queste è Walter Tobagi. La figlia del giornalista, Benedetta Tobagi, ritrova un appunto scritto in quei giorni dal padre. Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino. Guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa. Anche Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, ora presidente dell'Ordine dei giornalisti di Milano, si trova nel mirino dei terroristi e rivela, per la prima volta al giallo e nero, un particolare inedito. Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera, verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una lista, in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma dice, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8, io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Cresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto dove abitavo e via, io ho chiamato Walter quella sera, se ricordo a lungo abbiamo parlato, mi disse ma tu hai anche tu paura, disse ma io da Cosenza sono da Milano per lavorare, non per fare eroi, dico, però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress, dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9. Iniziano quindi le indagini. I magistrati di Milano e i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si indirizzano verso alcuni gruppi minori del terrorismo, le formazioni comunisti combattenti di Corrado Aluni e Guerriglia Rossa. Armando Spataro racconta il retroscena dell'inchiesta. L'inchiesta ovviamente si è sviluppata subito dopo la morte di Tobagi ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo antiterrorismo. In pratica, grazie all'analisi del documento di rivendicazione e al contenuto dello stesso, i carabinieri individuarono dei nessi possibili tra chi aveva commesso l'omicidio Tobagi e chi aveva in altri tempi precedenti, ma di poco, commesso degli attentati che avevano per oggetto e obiettivo sempre il mondo dell'informazione, rivendicandoli con la sigla Guerriglia Rossa. Si saprà dopo che era un'altra sigla questa utilizzata da Barbone e dei suoi complici, ma al momento ovviamente questo era ignoto. E la sigla Guerriglia Rossa era stata utilizzata per rivendicare, rammento, un attentato all'agenzia Manzoni di pubblicità, nonché a dei furgoni che trasportavano giornali nell'Italia dell'Est. Lavorando sulla sigla Guerriglia Rossa fu verificato che il modo di rivendicazione era identico, cioè la spedizione di volantini di rivendicazione in busta ad una serie di destinatari. Il vero salto di qualità fu costituito dal constatare che la grafia con cui erano scritti manualmente gli indirizzi su alcune buste era somigliante, se non identica ad un primo esame, a quella di Marco Barbone, o meglio a quella di una persona un cui documento manoscritto era stato ritrovato nel covo di Alunni il 13 settembre 78 e che successivamente, sulla base di una serie di indagini, sembrava potersi identificare in Marco Barbone. Si iniziò dunque a puntare l'attenzione investigativa su Barbone. In quel periodo, pur ponendolo sotto intercettazione telefonica ed altro, gli elementi a disposizione si rivelarono di poca rilevanza, anche perché Barbone partì per il servizio militare e dunque di fatto non aveva possibilità di contatti, non aveva possibilità di collegamenti con eventuali complici. Marco Barbone non sa che gli investigatori lo seguono da giorni. Intercettano le sue telefonate con la fidanzata Caterina Rosenzweig, annotano ogni appuntamento. Ma nel settembre del 1980 accade un fatto imprevisto, come conferma Armando Spataro. Ad un certo punto il generale Dalla Chiesa fu chiamato dinanzi alla commissione parlamentare per il terrorismo, rivelò che le indagini si stavano indirizzando verso un mondo di terrorismo, una parte del mondo di terrorismo vicino all'area dell'autonomia, così erano l'FCC e i gruppi che ne erano scaturiti, l'FCC e il gruppo di Alunni. Questa notizia venne pubblicata dall'Espresso e determinò in noi il timore che Barbone potesse intuire che a lui si pensava o le persone a lui vicine. Pertanto, per evitarne la fuga, si decise di fermarlo per che cosa? Non certo per l'omicidio, non avevamo alcuna prova, ma perché il documento trovato nel covo di Alunni manoscritto da lui, un documento che rivendicava una rapina. Si fermò per quella rapina di cui aveva scritto il volantino di rivendicazione. Barbone fu fermato, fu portato in caserma, io lo interrogai, negò ogni responsabilità. Al termine dell'interrogatorio gli dissi che era anche indiziato e sospettato di essere autore dell'omicidio Tobagi. Fu probabilmente una comunicazione che lo sconvolse. Il giorno dopo egli chiese di parlare con il generale Dalla Chiesa, non ricordo se il giorno dopo o dopo breve, insomma, e al generale Dalla Chiesa disse che egli intendeva collaborare e rivelare quanto sapeva sull'omicidio Tobagi, chiedendogli cosa lui personalmente e le istituzioni avrebbero potuto fare per aiutare i collaboratori. Il generale Dalla Chiesa si impegnò per un futuro compito di promozione della necessità di rafforzare la legge sui pentiti che già esisteva ma non era ancora di contenuti dirompenti, come in effetti fece dopo. Barbone confessò e rivelò tutto. E rivelò tutto, ovviamente dinamiche, motivazioni, autori, complici, e dunque possiamo dire che l'omicidio Tobagi, alla verità, non saremmo mai arrivati senza le confessioni di Barbone. Furono queste a determinare la scoperta di tutto il contesto criminale che stava dietro l'omicidio Tobagi, nonché a scoprire la dinamica e tutto. Barbone ovviamente collaborò anche su altri fatti e rivelò tutta la sua carriera terroristica e i vari contatti criminali che aveva avuto. 27 maggio 1983. Bettino Craxi, allora il segretario del Partito Socialista, rivela che i carabinieri fin dal dicembre del 79 erano a conoscenza di un attentato contro Walter Tobagi. L'esponente socialista tira in ballo il ruolo del confidente Rocco Ricciati, amico di Marco Barbone. Il 28 novembre dell'83 arriva la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti, le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione. Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Mazzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciati Rocco il beneficio della libertà provvisoria. 25 anni dopo, restano le idee del cattolico, socialista e riformista Walter Tobagi. Il 27 maggio del 1980, circolo della stampa a Milano. Mancano solo 12 ore al suo assassinio. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi le cose vanno avanti prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.